Ci sono opinioni contrastanti tra i presidi e gli insegnanti da un lato, che si dicono tutto sommato abbastanza ottimisti, e invece i genitori e gli studenti che sono più critici, addirittura danno un voto in pagella di 4,9 alla scuola italiana sulla capacità di formare i giovani al palcoscenico internazionale. Di chi è la colpa di questo votaccio? E se la danno un po' a vicenda. Diciamo che gli studenti soprattutto lamentano che ci sono le iniziative, ma riguardano pochi. Nel corso dei 5 anni meno del 40% riesce a partecipare a un'attività internazionale. Mentre i presidi e gli insegnanti dicono che sostanzialmente sono bloccati, hanno talmente tanti oneri da fare, cose da fare, che è difficile riuscire a portare avanti anche le strategie di internazionalizzazione. Un tema trasversale su cui tutti sono d'accordo è che la scarsa conoscenza delle lingue da parte degli insegnanti è un vincolo, un blocco psicologico che incide molto.